alcuni uomini della città, gente di Belial, circondarono la casa e bussarono alla porta. Si rivolsero al vecchio padrone di casa dicendo: «Consegnaci l'uomo che è venuto in casa tua, che vogliamo abusarne». Il padrone di casa venne fuori e disse a quella gente: «No, fratelli, non commettete il male, che quest'uomo è ospite mio, non commettete una simile nefandezza. Piuttosto c'è qui mia figlia, che è ancora vergine, e la concubina di quest'uomo ve le consegnerò, usatene e fatene quel che vi pare, ma su quest'uomo non commettete una nefandezza simile». Ma quelli non vollero dargli retta. Allora il levita, presa la sua concubina, la spinse fuori e l'abbandonò nelle loro mani. Quelli ne usarono e la violentarono per tutta la notte, fino al mattino, quando, sul far dell'aurora, la lasciarono andare. La donna arrivò a casa al mattino e, caduta davanti alla porta della casa dove si trovava suo marito, restò lì così finché non fu giorno. Intanto suo marito, alzatosi al mattino, aprì la porta di casa, usciva per mettersi in viaggio. Quando scorse la sua concubina che giaceva davanti alla porta, con una mano sulla soglia, l'uomo le disse: «Alzati, che partiamo», ma non ebbe risposta. Allora egli la prese e, caricatala sul mulo, partì per tornarsene a casa. Quando giunse a casa, il levita, afferrato un coltello e preso il cadavere della concubina, ne fece 12 pezzi che mandò per tutto il territorio di Israele. Agli uomini che inviò dette ordine di dire a tutti gli israeliti: «È mai avvenuto un fatto come questo dal giorno della liberazione degli israeliti dall'Egitto fino ad oggi? Pensateci bene, discutete e decidete». Tutti quelli che venivano a sapere la cosa dicevano: «Non è mai accaduto, non si è mai visto un fatto come questo dal giorno della liberazione degli israeliti dall'Egitto fino ad oggi».